Vangelo di San Luca, capitolo 18. Propose loro anche questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi. In una certa città v'era un giudice che non temeva il Dio né aveva rispetto per alcun uomo. E in quella città vi era una vedova la quale andava da lui dicendo: «Fammi giustizia del mio avversario». Ed egli per un tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: «Benché io non tema il Dio e non abbia rispetto per alcun uomo, pure perché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia, che talora, a forza di venire, non finisca col rompermi la testa». E il Signore disse: «Ascoltate quel che dice il giudice iniquo. E Dio, non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? E sarà egli tardo per loro? Io vi dico che farà loro prontamente giustizia. Ma quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà egli fede sulla terra?» E disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piè, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto ciò che posseggo». Ma il pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure alzar gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore». Io vi dico che questi scese a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Or gli recavano anche i bambini perché li toccasse, ma i discepoli, veduto questo, sgridavano quelli che glieli recavano. Ma Gesù chiamò a sé i bambini e disse: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me e non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà punto in esso». Ed uno dei principali lo interrogò dicendo: «Maestro buono, che farò per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono salvo uno solo, cioè il Dio. Tu sai i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». Ed egli rispose: «Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza». E Gesù, udito questo, gli disse: «Una cosa ti manca ancora. Vendi tutto ciò che hai e distribuiscelo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguitami». Ma egli, udite queste cose, ne fu grandemente attristato, perché era molto ricco. E Gesù, vedendolo a quel modo, disse: «Quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio! Poiché è più facile ad un cammello passare per la cruna d'un ago che a un ricco entrare nel regno di Dio». E quelli che udirono questo dissero: «Chi dunque può essere salvato?» Ma egli rispose: «Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio». E Pietro disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato le nostre case e t'abbiamo seguitato». Ed egli disse loro: «Io vi dico in verità che non v'è alcuno che abbia lasciato casa o moglie o fratello o genitori o figliuoli per amor del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nel secolo a venire la vita eterna». Poi, presi seco, i dodici disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figliol dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti, poiché egli sarà dato in man dei gentili e sarà schernito ed oltraggiato e gli sputeranno addosso, e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà». Ed essi non capirono nulla di queste cose, quel parlare era per loro oscuro,